Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che parla di donne e di lavoro eppure di multitasking che, come lo sapete, è una fregatura perché ci costringe a fare troppe cose, troppe tutte insieme. E poi ci fa sentire in colpa se non le facciamo bene. Donne e lavoro, ma questa domenica vorremmo parlare anche di una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito un principio interessante. Partendo dal caso del divorzio dell'ex ministro dell'economia Vittorio Grilli e della sua ex moglie, l'americana Lisa Loewenstein, ha stabilito che dopo il divorzio il coniuge più debole, in questo caso la moglie, non ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva negli anni del matrimonio. Il messaggio è stato colto e tradotto così: bene, così non ci saranno più le cacce scatenate ai calciatori, preda ambitissima perché li sposi, fai due bambini e poi ti mantengono a vita nel lusso più sfrenato, ma si diceva, si è letto nei commenti di molti avvocati, anche matrimonialisti, così le donne finalmente si metteranno a lavorare. Ora, a parte il fatto che finalmente talvolta mi pare ingeneroso perché ci sono tante tante donne che il lavoro lo cercano seriamente e non lo trovano, ma che cosa significa questa sentenza? Che effetto ha o può avere o potrà avere nella vita di quelle che non sono in attesa di mantenere un tenore di vita miliardario, ma che invece vivono di assegni alimentari molto modesti, 300 euro a volte? Che cosa cambia e se cambia qualcosa? Tra l'altro, quando si dice che il tema è caldo, proprio un paio di giorni fa invece è arrivata un'altra sentenza della Cassazione, questa volta relativa alla causa di separazione forse più famosa degli ultimi anni in Italia, cioè quella tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Questa sentenza ha stabilito che Veronica Lario avrà diritto ad avere 2 milioni al mese, così come era stato stabilito dal tribunale in precedenza, ma solo per gli anni della separazione. Poi, dopo il divorzio, si vedrà. Insomma, è un tema che ha tanti riflessi e noi cominciamo a approfondirlo col nostro agente provocatore di questa domenica. E l'agente provocatore questa domenica è un agente provocatrice, Cinzia Sasso, giornalista, scrittrice, moglie di Giuliano Pisapia, già sindaco di Milano e ora impegnato in un nuovo progetto di cui vedremo gli sviluppi a breve. Come sapete, perché Cinzia Sasso è stata anche ospite di Nessuna è perfetta e si è parlato molto del suo libro Per ogni dove, è l'autrice di Moglie, un libro pubblicato da UTET che difende il ruolo proprio professionale di una moglie. Ruolo che, cara Cinzia Sasso, rischia di apparire sminuito secondo te dalla sentenza della Corte di Cassazione, quella relativa al divorzio Grilli-Loewenstein? Beh, intanto saluti a tutti, ciao Maria e buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è una parola che non condivido in quello che hai detto presentando così il libro, il mio libro che si intitola Moglie, e cioè hai detto la moglie professionale. Ora, sia il mio libro sia la mia idea di moglie, quella che ho scoperto molto tardi, essendo io sposata molto tardi, non ha assolutamente nulla a che vedere con la professionalità o con la professione. Cioè, secondo me una moglie, io credo, la moglie che sono stata io, ma tantissime mogli fanno, cioè sono delle professioniste eccellenti, ognuna per le cose che sanno fare, però sono cose che esulano e non sono, c'entrano con il rapporto di moglie. Se anche uno dà la sua massima consulenza professionale, mettiamo che è bravissimo, ma lo fa come moglie, come consorte di qualcheduno, ecco, lo fa per un rapporto personale, di amore, di stima, di condivisione con una persona, non perché è un lavoro. Non è un lavoro, dici? E questo lo pensa anche la Corte di Cassazione nella sentenza relativa al divorzio Grilli-Lowenstein, perché dice viene meno il principio secondo il quale la moglie dopo il divorzio deve mantenere lo stesso tenore di vita che aveva prima, mentre i teorici di ciò dicono: beh, ma come? Magari una signora ha rinunciato al lavoro, cosa che nel tuo caso per esempio non è successo, e tu hai fatto la giornalista tutta la vita, poi soltanto quando c'è stato l'arrivo di Giuliano Pisapia al comune hai smesso, però prima hai fatto tutta la vita la giornalista. Per molte invece il matrimonio coincide con lasciare una carriera, e dunque dicevano i difensori di questa teoria, se una moglie lascia il proprio lavoro e si dedica alla famiglia, contribuisce alla carriera del marito e poi deve mantenere il tenore di vita anche dopo il divorzio. È una sentenza che ha fatto molto discutere. E vabbè, intanto chiariamo che le sentenze, tu lo sai benissimo, e lo sanno sì. anche gli ascoltatori, riguardano dei casi specifici, cioè non sono delle leggi certo. che sono generali, che valgono per tutti. Quindi questa pronuncia riguardo a quel divorzio ha delle ragioni legate a quella vicenda. Però se parliamo in generale, poi è chiaro che poi le pronunce come questa di organi giurisdizionali importanti cambiano un po', non so, anche il modo di sentire delle persone, un po' la cultura, ecco. E io credo che questa sentenza sia un grande passo avanti, cioè perché non vede più la moglie come un appendice di qualcheduno. Io ti ringrazio per aver detto che ho lavorato sempre, ma non avrei mai potuto pensare che ci fosse qualcun altro che pagava i tuoi conti, ecco. Che pagava i miei conti, che non so, che metteva la benzina alla mia macchina, che mi dava i soldi per comprarmi quello che mi girava di comprarmi. Quindi in realtà mi sembra molto più moderna e molto più vicina a quella che io credo e spero che sia la società di oggi. È vero anche che però ci sono situazioni in cui, penso per esempio al sud, una donna non è che non voglia lavorare, non ha da lavorare, si separa, riceve un assegno modesto, e forse magari incontra un giudice che adesso le dirà: non ti tocca più nemmeno questo assegno modesto, perché mi rifaccio alla sentenza della Cassazione del divorzio Grilli-Lowenstein. Cambiano le cose per chi ha 300 euro al mese. Però rovesciare quello che hai detto. Allora, non so, pensa alle persone che vanno a fare le badanti nelle famiglie, no? Sì. Che in genere sono delle donne e che sono l'unico sostentamento della famiglia. Perché questo è un lavoro, per esempio, che fanno di preferenza alle donne, le famiglie certo. preferiscono che siano donne, eccetera. Allora, se lo rovesciamo, in questo caso, quando due si separano, è l'unico reddito è quello disoccupato, sì. è reddito quello della donna, cosa fa? Voglio dire, è abbastanza uguale. Se poi una donna sceglie di fare la moglie, io mi auguro che in questa società succeda anche che ci sia un uomo che può scegliere di fare il marito, e cioè di stare vicino a una donna e di occuparsi, che accade in certi casi con donne che hanno delle grandi carriere. Certo, ne conosciamo, certo. Ne conosciamo, di quelli dei mariti sono i mariti che stanno a casa. Comunque, per tutti quelli che vogliono approfondire il ruolo della moglie, come l'ha vissuto e come l'ha raccontato da giornalista brava qual è Cinzia Sasso, ricordo che in libreria c'è Moglie, pubblicato da UTET, ed è, devo dire, uno dei pochissimi libri che abbiano affrontato il ruolo della moglie senza timori, perché un po' di... no? Un po' di timore nel definirsi così adesso c'è. No? Come faceva notare qualcuno, questa sentenza della Cassazione proietta sulle donne adesso il senso di colpa se non lavorano. Certo, io sono stata molto orgogliosa, devo dire che sono molto preoccupata, tu lo sai, quando ho deciso di titolare Moglie questo libro, che in realtà è una storia d'amore, ma d'amore non solo per un uomo, d'amore anche per le donne, per quello che le donne secondo me fanno e sono riuscite a fare. Però certo il titolo sembrava un po' un pugno nello stomaco, ma credo che bisogna andare al di là delle parole e andare alla sostanza dei concetti, delle cose. Grazie Cinzia Sasso, la nostra agente provocatrice di questa domenica, e buona domenica a lei. Grazie a voi, buona domenica. Nessuna è perfetta. Seconda parte di Nessuna è perfetta. Come sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. E la nostra Sunday Girl questa domenica è la bravissima attrice, regista, scrittrice, sceneggiatrice Simona Izzo. Buona domenica Simona, bentornata a Nessuna è perfetta. Come stai Maria? Io bene, io bene. E credo che tu, che sei oltre che una regista molto attenta ai temi così che riguardano la vita di coppia, sì. Docente in famiglie allargate, dai, sì, dopo 30 sì, anni. Dopo 30 anni ce l'hai la laurea. Come hai reagito quando hai letto sui giornali della sentenza che riguardava una coppia famosa, l'ex ministro dell'economia Grilli e la sua ex moglie americana Lisa Loewenstein? La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di divorzio non si deve più assicurare alla moglie lo stesso tenore di vita di prima. Che effetto ti ha fatto? Ma guarda, mi ha toccata poco, nel senso che io ho avuto e vissuto questa sentenza, anche se le sentenze si rispettano, quindi la rispetto, 35 anni fa, cioè io sposata con un famosissimo cantautore che aveva fatto carriera insieme a me, nel senso che eravamo due ragazzi e lui poi è diventato Antonello Venditti. E lui era più ricco di te all'epoca? Beh, diciamo, quando ci siamo conosciuti eravamo due persone, due ragazzi borghesi, però la pizza la pagavo io. E quando poi è diventato Venditti durante il nostro matrimonio, diciamo che io non lavoravo, quindi lavoravo pochissimo nell'azienda di famiglia, quindi, però non avendo fatto causa, ricordo anche che avevamo deciso di prendere un unico avvocato che poi passò invece ad essere il suo avvocato. Sai quelle cose? Tra l'altro era anche un amico di famiglia. Quindi, e non avendogli fatto causa, perché purtroppo io mi sembrava di fare Simona versus Simona, no? Avendo amato un uomo. Essendo persino una persona per una separazione per colpa, io non ho avuto un riconoscimento per quanto mi riguardava, per cui... Ma era per colpa tua? Per colpa sua. Ah, per colpa sua. Quindi avrei potuto, io avrei certo. vinto la causa. Avresti vinto la causa e avresti avuto diritto a un mantenimento. Al diritto, certo, al mantenimento e a tutto. Però io lavoravo, avevo un piccolissimo, diciamo, rispetto naturalmente alla sua, facendo la scrittrice, la regista, non è che, sai, Carmina non dà il pane. Però non è che il giudice ha detto allora sì, lei deve avere il tenore di vita di suo marito. Quindi io questa sentenza, la verità è che se tu non vai in causa, in pregiudiziale, in giudiziale, non viene mai attuata. Adesso, detto questo, sono passati 35 anni dalla mia esperienza, per certi versi mi ha indignata. Per altri versi invece mi ha consolata, perché vuol dire che c'è una percezione delle donne diversa da quando ero giovane io. Certo è che quando ero giovane io, una donna che lavorava, perché questa sentenza mi sembra che potrebbe danneggiare una donna che si è occupata della famiglia. E che non ha mai lavorato, certo. Che non ha mai lavorato, perché adesso sono cattive quelle che non lavorano. Allora mi ricordo che il giudice disse: beh, ma la signora lavora, è un'artista, e sottintendeva pure forse una mamma che in questo momento sta trascurando il bambinello. Quindi allora eravamo percepite come streghe se lavoravamo, e ora siamo streghe. Se non, se non lavoriamo, se cioè non il messaggio è lavora, perché se no, se fai conto di contare sul matrimonio, sì, sia una carriera. Io sento dire questa cosa: il matrimonio è una carriera. Io conosco pochissimo, ci sono delle donne che considerano il matrimonio una carriera. Allora forse questa sentenza, sai, le sentenze, poi io dico, ogni causa ha una drammaturgia. Certo. Quindi, se mi consenti, la signora Berlusconi ha avuto e ha una, tra l'altro, questo ricorso che è stato da pochi giorni. Questa è un'altra sentenza, infatti è molto interessante. La prima sentenza sul diciamo divorzio, Grilli ha stabilito che col divorzio, dopo il divorzio non ha più tenuto lo stesso tenore di vita. La sentenza che invece ha riguardato Silvio Berlusconi stabilisce che durante gli anni della separazione... Gli anni della separazione quanti sono? Scusami, sono tre, se mi pare che siano... Beh, possono essere anche molti di più, perché nel loro caso c'è stata anche una lunga causa, no? Certo. Ma adesso con le nuove leggi... Praticamente con le nuove leggi adesso il divorzio arriva in 6 mesi, quindi certo, sì. Appunto, poi costa pochissimo. Io l'altro giorno nel salotto di Vespa c'era un avvocato e ho detto la verità più o meno questo, poi non era così felice la battuta, dico la verità è che noi divorziamo e poi andate a nozze. Gli avvocati, sì, certo, sì, certo. Però, perché scusami adesso, tutti quelli che hanno fatto ricorso, cioè tutti gli uomini che le donne hanno fatto ricorso, le mogli o comunque il coniuge più debole ha fatto ricorso per avere un tenore di vita adeguato, adesso andranno dagli avvocati per fare ricorso e riprendersi. Quindi questo è il problema, è un circuito infernale, infernale, dove appunto vanno nozze gli avvocati. E poi riguarda, è una sentenza di classe, ce lo vogliamo dire, perché chi non ha nulla, cosa vuole spartire, cosa vuoi dare? Certo, però è una cosa che riguarda forse un 3% della popolazione. I ricchi, poi guarda, io ti posso dire, io conosco poche donne che considerano il matrimonio la carriera e tutte infelicissime. Una battuta che correva era particolarmente proiettata sul ricchissimo mondo del calcio. Perché si è detto, così le varie cacciatrici di calciatori la smetteranno di cercare a tutti i costi il calciatore, farsi sposare, fare 2 figli e mettersi a posto per la vita. Sì, lì ho letto cifre 55.000 euro, 80.000 euro, accidenti. Voglio dire, io... per quanto sia sempre dalla parte delle donne, penso che 2 figli si possano crescere con, diciamo, con un assegno alimentare, non siano proprio dei mangioni, sì. Con un assegno alimentare, diciamo, più contenuto, diciamo, ecco. Più contenuto, quindi. Però che ti devo dire, io di fronte a una sentenza così controversa, vediamo se farà giurisprudenza. Perché poi c'è il tempo che ci... non vorrei che fosse sbandierato il fatto che adesso ci dobbiamo ritenere indipendenti, il coniuge più debole finalmente è indipendente, che lavorasse. Il matrimonio può essere anche un mutuo soccorso, non lo so, io lo intendo anche così. Io, quando mio marito non lavora, noi facciamo gli artisti, sì. Lo mantengo io, quando non lavoro io mi mantiene lui. Ma a me sembra di mantenere me stessa quando mantengo mio marito. Ma questo, perché questo è un vero rapporto, cara Simona Izzo, e non tutti hanno la fortuna, di vivere così. Grazie. Però ti posso, sì, dare l'ultima suggestione, sì, Maria, che è questa, e cioè meglio essere tenuta per mano che mantenuta, perché quella è la libertà. Tenuta per mano, meglio, e non mantenuta. Credo, la libertà è questa. Credo che sia un bellissimo pensiero con il quale concludere la nostra chiacchierata con la Sunday Girl di questa domenica. Simona Izzo, grazie. Ciao, grazie a te. Grazie, Maria. Buona domenica. Ciao. Nessuna è perfetta. Eccoci, Bentornati alla terza parte di Nessuna è Perfetta. Continuiamo a parlare degli effetti delle due sentenze della Corte di Cassazione che hanno suscitato, come sapete, grande attenzione, perché riguardano la vita di tantissimi uomini e tantissime donne. Io vi presento subito i due esperti di questa domenica: l'avvocato Cesare Rimini, che non ha bisogno di presentazione, uno dei più noti avvocati matrimonialisti d'Italia. Buona domenica, avvocato. Buona domenica a tutti. E Linda Laura Sabadini, editorialista della Stampa e statistica sociale. Benvenuta, anzi bentornata, perché è una frequenza, diciamo, la tua, che ci fa molto piacere avere, diciamo, spesso qui a Nessuna è Perfetta. Bentornata Linda Laura Sabadini. Grazie mille per gli inviti che mi fate. Avvocato, intanto una precisazione: queste due sentenze, tutte e due della Cassazione, no? Una riguarda la separazione e l'altra riguarda il divorzio. Sono due sentenze, non sono leggi, quindi in che modo faranno giurisprudenza nella vita di tutti gli altri che sono in questo momento separati o si separeranno, che sono divorziati? Le sentenze, soprattutto quelle della Cassazione e soprattutto quelle della Cassazione a sezioni unite, alludo a quella del 90 che parlava della esigenza di mantenere il tenore di vita per il coniuge più, virgolette, debole, sono dei precedenti giurisprudenziali e perciò ogni poi controversia va risolta caso per caso. Soprattutto, e così veniamo subito a un punto delicato del nostro colloquio, prima di tutto, quando si deve valutare l'autosufficienza di una persona, occorre valutare appunto quello che ha, il lavoro che ha, che aspettative di lavoro ha, cioè un giudizio che è tipico della quella controversia. Certo, quindi caso per caso. Allora, io adesso vorrei accendere il riflettore sulla prima sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto discutere. Si tratta della sentenza 11.504 relativa a un divorzio tra benestanti. L'ex ministro dell'economia del governo Monti, Vittorio Grilli, e la sua ex moglie americana Lisa Loewenstein. Che cosa diceva questa sentenza, avvocato Rimini? Così poi vado subito da Linda. La sentenza praticamente dispone che nessun assegno divorzile venga dato alla signora, ma la influenza di questa sentenza, che devo dire raramente io ho visto gli esiti di una sentenza della Cassazione riempire i giornali, perché, come ha detto lei prima, è una cosa che interessa persino quelli che hanno intenzione di sposarsi, che possono preoccuparsi, visto da destra, visto da sinistra, del loro futuro economico. Perciò devo dire che la prima cosa è che la sentenza conferma quello che aveva deciso la Corte d'Appello, ma al tempo stesso è la motivazione della sentenza che diventa molto interessante, perché fa delle affermazioni di ordine generale, e cioè dice che nel valutare se l'assegno divorzile è dovuto e poi in subordine quanto è dovuto, bisogna tener conto di molte circostanze, di molti altri dati, ma non del mantenimento dello stesso tenore di vita, che è una terminologia lessicale che si leggeva in tutte le cause fino adesso discusse in questa materia. Cioè si diceva che il coniuge più debole aveva diritto di mantenere lo stesso tenore di vita che in taluni casi voleva certo dire importi altissimi. Altissimi. Linda Laura Sabbadini, può essere una brutta notizia per le signore che hanno sposato dei calciatori con tenori di vita altissimi, ma è una brutta notizia anche per chi invece si separa, anzi divorzia, perché questa sentenza fa riferimento al divorzio, da un impiegato, da un operaio? Secondo me sì. Io ho cercato di spiegare proprio in un editoriale le mie fortissime perplessità rispetto a questa sentenza, per un motivo molto semplice, e cioè già una sentenza simile era avvenuta nel 1990, in seguito a quella era stata, diciamo, la Corte di Cassazione aveva emanato poi questa nuova sentenza in cui introduceva il tenore di vita come riferimento. Però questa introduzione del tenore di vita, secondo me, viene vista così negativamente nel senso comune, anche dai titoli di giornale, invece va un attimo apprezzata nel significato anche che portava, e cioè quando si mette su una famiglia, comunque una vita di coppia, che cosa succede? Che all'interno di questa coppia poi si innesta un certo tipo di rapporto, si fanno delle scelte, il marito magari fa un certo tipo di carriera. Dobbiamo essere molto, molto sintetici, Linda. Basa anche sì su questo, e insieme valutano che magari la donna, no, stia a casa e si occupi dei figli. Meno in termini di lavoro, perché non ce la fa, ma si accolla molto di più in termini di gestione della famiglia, cura, tutto quello che è in qualche modo lavoro invisibile delle donne di cui abbiamo sempre certo parlato. Allora, cosa succede? Che nel momento in cui tu hai a che fare con il tenore di vita e devi stabilire se l'assegno lo dai o non lo dai, parti da una questione, cioè qual è il livello a cui stanno questi due coniugi, e cominci a valutare da quanto tempo stanno insieme. Certo, stanno insieme da 6 mesi, certo, è un conto, da sei sì, mesi, sì, sì, ha poco senso, è chiaro, pensare, no, è all'assegno chiaro di mantenimento che gli ha dovuto, e probabilmente quel livello che viene considerato si abbasserebbe drasticamente verso zero. Quanti figli hanno avuto? Che tipo di percorso c'è stato? Cioè, quel tenore di vita non era semplicemente dire tu mi devi garantire che quello che avevo ce l'ho, costi quel che costi, ma era il punto di partenza che poi veniva progressivamente abbattuto sulla base di tutta una serie di variabili che entravano in gioco. Ti fermo. Compreso il contributo che la donna ha dato al di là del suo certo salario, alla carriera del marito, e quello che ha garantito che sì, l'uomo sì stesso ti fermo, ti fermo, e arrivasse a quel ti livello. Fermo un secondo. È vero, è quello che per esempio l'ex moglie di Grilli, Lisa Loewenstein, ha detto: io mi occupavo della vita sociale di mio marito, sono stata utile per tante relazioni. Avvocato Rimini, questa è la prima sentenza, no? Quella che ha fatto dire a alcuni suoi colleghi: bene, è giusto, così le donne smettono di vedere il matrimonio come un investimento astuto. Si parla sempre, no, di chi sposa il calciatore e poi si sistema per la vita, fa due figli e è a posto per la vita. Non sarà più così d'ora in poi? Ma è sempre il discorso che ha fatto la mia collega di trasmissione, Linda Laura Sabbadini. Certo, è giustissimo. Cioè, bisogna vedere, tener conto che certe volte quella attività non redditizia sul piano monetario comporta una, voglio dire una cosa che può sembrare assurda, una vera partecipazione ad alzare il tenore di vita, perché se l'altro coniuge, diciamo pure l'altro coniuge, sì, perché per fortuna adesso non è detto che quello che guadagna di più sia il marito rispetto alla moglie, può essere, e io ricordo dei casi personali molto divertenti anche, in cui ci sono dei mariti che danno fior di assegno alla moglie, chiusa la parentesi. Però dicevo, questa cooperazione della moglie, che magari non si traduce nel fatto che lei ha un altro lavoro retribuito, però ha un significato economico che può essere enorme, cioè può essere molto più importante come impegno di tempo e di cure di quello di fare l'avvocato, di fare l'ingegnere. Insomma, per questo bisognerà assolutamente tener conto, come ho detto prima, del caso per caso. Certo. E un'altra cosa brevissima che voglio dire: è chiaro che se andiamo verso l'idea di un matrimonio con un profilo che da sentimentale diventa economico, è chiaro che allora si capisce perché nella più parte dei paesi europei sono previsti i patti prematrimoniali. Se dobbiamo parlare di soldi, parliamo anche di pattuizioni relative a quello che succede sul piano economico se il matrimonio, certo, se volete, fallisce. Certo. Chiedo un attimo di pazienza a Linda Laura Sabbadini e all'avvocato Cesare Rimini, torniamo tra poco. Faircam Air Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati, questa è l'ultima parte di Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare degli effetti di queste due sentenze della Cassazione in tema, una di divorzio e l'altra di separazione. Lo facciamo con l'editorialista della Stampa, Linda Laura Sabbadini, e con l'avvocato matrimonialista Cesare Rimini. Linda Laura Sabbadini, ho notato che nei giorni della prima sentenza c'erano dichiarazioni della serie: bene, così che le signore vadano a lavorare, la smettano di vedere investimento proficuo nel matrimonio col calciatore o col grande imprenditore o col miliardario. Tutto ciò invece si è zittito quando è arrivata la seconda sentenza, la sentenza della Cassazione, che ha confermato 2 milioni di euro al mese che Berlusconi deve dare alla ex moglie Veronica Lario, perché essendo uno degli uomini più ricchi del mondo, nella separazione il tenore di vita va mantenuto. Questa seconda sentenza, che vale per la separazione, per gli anni della separazione, non riguarda il divorzio, ha improvvisamente messo il silenziatore a tutti gli avvocati che stavano dicendo: sì sì, hanno ragione i mariti ricchi, ora va di moda difendere i mariti ricchi più che le mogli deboli. È cambiato un po' la tendenza. Sì, è andata così, però una riflessione va fatta in generale sulle coppie nel loro complesso, perché di solito quando si parla invece di questa cosa degli assegni di mantenimento si pensa sempre agli assegni miliardari, no? E non si pensa a quella che è la situazione della maggioranza delle coppie italiane. Allora, quello che succede da noi è che in realtà poi tutte queste coppie in cui c'è l'assegno di mantenimento non ci sono, cioè sono solo il 10% del totale sostanzialmente, ci sono un po' di più in caso di separazione, arriviamo al 20% di assegno al coniuge, ma nel caso dei divorzi si arriva addirittura al 10%, stiamo molto al di sotto dei 1000 euro al mese. Non pagano come assegno in media. Il coniuge quindi forte non paga a quello più debole, diciamo, stai dicendo questo? Esatto, a quello più debole. È chiaro che quello più debole nella stragrande maggioranza dei casi, se si analizzano anche le coppie oggi, il reddito di lui e il reddito di lei, noi sappiamo che c'è un fortissimo vantaggio delle donne. Perché non, perché non pagano? Gli assegni? No, non pagano. Semplicemente perché non c'è una situazione che non è una situazione così nella valutazione che poi viene fatta anche sulla base del tenore di vita, non sempre c'è quello squilibrio tale da garantire, da arrivare a determinare un assegno. Quindi questa era la prima cosa che volevo dire. Adesso però il problema qual è? Che se viene applicata quella sentenza, la prima sentenza, no? Quella che riguarda il divorzio, la prima sentenza, che giustamente, come dice l'avvocato, io spero bene che le sezioni riunite affrontino quella questione, perché quella non è una questione da Corte di Cassazione, da una sezione, le sezioni riunite devono affrontare quella. Allora, se si applica quella, non si valutano più tutte le cose che dicevamo prima, che tenevano conto del tenore di vita, tutto il contributo che ognuno dei due ha dato. Si dice, il livello è garantito, il livello di sussistenza per la donna? Se la donna lavora, ha un lavoretto, un lavoro part-time che gli garantisce il livello di sussistenza, anche se ha dato il contributo che ha dato al marito durante quegli anni, a livello familiare e non solo, non c'è storia. Lei non ha diritto a nulla. Quindi paradossalmente una donna che lavora part-time o che magari fa l'insegnante e guadagna molto poco, che ha dato un grosso contributo al reddito di suo marito, che magari ha fatto una brillante carriera, il marito continuerà a vivere dei suoi redditi alti, la moglie, la ex moglie non si prenderà nessun assegno e si arrangerà. Non mi pare che questa sia una sentenza moderna e più equa. Avvocato Rimini, per quanto riguarda invece la sentenza che ha fatto anche discutere, quella Berlusconi-Lario, la Cassazione ha stabilito un'altra cosa. Qual è la differenza? Ci faccia capire. Tra la prima e la sentenza. La differenza è fondamentale. Una è una sentenza di separazione e vale quel trattamento fino alla pronunzia del divorzio. L'altra invece si occupa di un divorzio già in essere, che viene pronunziato in quel momento con questi nuovi criteri che sono emersi chiaramente dal nostro colloquio, e perciò che dove c'è una posizione riduttiva per quella donna, come abbiamo detto un minuto fa, quella donna che si è sacrificata, che ha dato e che ha contribuito, dicevo io quasi scherzosamente, proprio col suo non lavoro esterno a portare alto quel tenore di vita che però come criterio di riferimento è perduto. Voglio dire un'altra cosa, che molte volte non ci sono poi gli assegni da divorzio, anche perché per fortuna i coniugi si sono fatti un'altra vita, perciò certo, l'assegno va perduto per legge. Perché uno si risposa, certo. I numeri. E infine un'altra osservazione alla quale io tengo molto, che è bene che quando il matrimonio entra in crisi, ormai i tempi tra separazione, pronuncia della separazione e richiesta di divorzio sono 6 mesi, in quel caso lì è molto bene che da subito le parti trovino l'accordo economico, perché l'accordo economico riguarda solo i coniugi che diventano ex coniugi e invece non può riguardare i figli. E io mi permetto di ripetere che se il rapporto economico tra ex coniugi viene definito una tantum con chiusura, è una buonissima cosa, così ognuno è libero di fare la propria vita e le discussioni per il mantenimento dei figli, per quanto deve essere dato per i figli, in genere, siccome i figli sono figli, non cambia, ecco. Hai capito? Rimane. Senta, in un minuto, certo, in un minuto, avvocato, lei coglie un cambiamento di tendenza? Negli anni 90 erano le mogli tigri, no? a ricorrere agli avvocati per ottenere notevoli somme, per quell'epoca soprattutto. Adesso lei coglie la tendenza, come dire, dei mariti che di fronte al divorzio diventano loro agguerriti e cominciano a tirarla per le lunghe pur di non riconoscere. Ogni avvocato che si occupa di diritto di famiglia appena è stata pronunciata l'ultima sentenza, ha avuto decine di telefonate viste da destra e viste da sinistra. Mi toglieranno l'assegno. Ora, dove la pronunzia c'è già stata, dove non ci sono cause in corso, è un po' delicato il problema, cioè di fare un'azione per chiedere una riduzione dell'assegno divorzile in virtù di un mutamento giurisprudenziale. In genere si dice che per chiedere una riduzione ci vogliono, dice la legge, giustificati motivi, certo. Ma i giustificati motivi può essere che uno ha ereditato dallo zio d'America e che un altro per malattia ha perso non ha più il lavoro. Certo. Ecco, è chiaro. Mi pareva giusto, in una visione che abbiamo cercato di fare panoramica, di dire anche questo. Certo, io ringrazio Linda Laura Sabadini, editorialista della Stampa e statistica sociale, ringrazio l'avvocato Cesare Rimini, notissimo matrimonialista italiano. Posso portare via un istante? No? Certo, certo. Ecco, sappia solo che siccome io ho 58 anni di matrimonio, mi hanno detto ma qual è il segreto? E io ho detto è che quando io dico a mia moglie che ci sono delle signore che mi toccano il sedere in tram, lei dice guarda che per fregarti il portafoglio. Benissimo, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie. Nessuna è perfetta termina qui. Buona domenica a tutti voi che ci avete seguito. Col nostro mantra, ricordatevelo, il multitasking è una fregatura. Fatene a meno almeno oggi.